229. Donzelline aromatiche. Farina grammi 180 circa, olio 2 cucchiaiate, vino bianco o marsala 2 cucchiaiate, salvia 5 o 6 foglie, un uovo, sale quanto basta. La salvia tritatela con la lunetta e poi intridete la farina con tutti gli ingredienti lavorandola bene e procurando che la pasta resti piuttosto morbida. Poi tiratela col matterello alla grossezza di uno scudo, spolverizzandola con farina se occorre e tagliata a mandorle, friggetela nell'olio o nel lardo. Sento dire che qualcuno le mangia insieme ai fichi ed al prosciutto. Ritengo questa quantità sufficiente per 4 persone.